Sei sposa, che la rete zero otto, ma così sei sposa, che la sua gente fighe la rete le divise. Concluso ormai, dopo un amaro del capo tutti fuori a fa freestyle. DJ Browser stava smontando le file e fiche Baron le rima all'ingresso del pipeline. Guai lo tendevano, ma tu dimmi che merito. Inespressivi mostrano il distintivo gelido. Fiche fece un film contro i loro comportamenti. Gli si avvicinarono e dissero documenti. Finì la sigaretta, la buttò per terra. I tuoi sguardi taglienti come una lametta. Senza fretta tirò fuori la carta d'identità per fare una multa a chi canta ma per carità. Non c'è libertà di parola, le loro frasi sono dette dalla pistola. Ora ci seguo in caserma, dentro la volante con dei stronzi, perciò puzza di merda. Finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise. Senza risposta alle nostre domande hanno messo fighe dentro alla volante. Mentre poi ridi coi compagni, vorrei sapere nelle denunce la percentuale che guadagni. Quale ladro, chiediti, se ciò che perquisisci lo usi per saldare i tuoi debiti. Mettiti le manette da solo e riprenditi i suoi plusi che hai fatto a loro. Denuncia il tuo lavoro se sei un corrotto e vuoi soltanto oro, orgoglio e rispetto. Il fatto che fighe sia uscito con la denuncia fa di voi la coscienza sporca e non basta una doccia. Invece di ammanettar chi non fa niente, a prendere chi uccide la gente, chi veramente spara, chi rapina, chi uccide e tiene i corpi morti in cantina. Cantina. Finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise, finché la rete le divise. Che la rete le divise.